Capitolo 111. Atreo e Tieste. Taluni dicono che Atreo, fuggito dall'Elide dopo l'assassinio di Crisippo, forse perché vi era implicato molto più di quanto Pelope sospettasse, si rifugiò a Micene. Colà la fortuna gli arrise. Suo nipote Euristeo, che si preparava a marciare contro i figli di Eracle, lo nominò reggente in sua assenza, e quando giunse la notizia della disfatta e della morte di Euristeo, i notabili di Micene elessero Atreo loro re, perché egli pareva guerriero valoroso in grado di opporsi agli Eraclidi. Inoltre Atreo si era già conquistate le simpatie del popolo, così la real casa di Pelope divenne ancor più illustre di quella di Perseo. Altri invece, con maggiore autorità, dicono che il padre di Euristeo, Stenelo, impadronitosi del trono di Micene dopo aver esiliato Anfitrione, mandò a chiamare Atreo e Tieste, suoi cognati, e li installò nella vicina Midea. Pochi anni dopo, morti Stenelo ed Euristeo, un oracolo invitò i Micenei a scegliersi un principe della casa di Pelope perché governasse sulla loro città, a che i Micenei convocarono Atreo e Tieste e discussero quale dei due, poiché essi erano destinati a trovarsi sempre alla pari, dovesse essere incoronato re. Orbene, Atreo aveva un tempo fatto voto di sacrificare ad Artemide il più bel capo del suo gregge, ed Ermete, smanioso di vendicare la morte di Mirtilo sui Pelopidi, chiese aiuto al suo vecchio amico Pan. Costui introdusse un agnello cornuto dal vello d'oro nel gregge che Pelope aveva lasciato ai suoi figli Atreo e Tieste. Pan prevedeva che Atreo avrebbe rivendicato il possesso di quell'agnello e, per non aver rispettato il voto fatto ad Artemide, sarebbe stato coinvolto con Tieste in una guerra fratricida. Taluni sostengono tuttavia che Artemide stessa introdusse l'agnello nel gregge per mettere Atreo alla prova. Atreo rispettò il suo voto, almeno in parte, sacrificando ad Artemide la carne dell'agnello, ma ne fece impagliare il vello e lo tenne chiuso in un cofano. Divenne anzi così orgoglioso del suo tesoro che non poté resistere alla tentazione di menarne vanto sulla piazza del mercato. Tieste allora, roso dall'invidia, consentì a divenire l'amante della giovane sposa di Atreo, Erope, che aveva concepito per lui un'insana passione, a patto che essa gli consegnasse l'agnello, poiché Tieste sosteneva che tale agnello gli era stato rubato dai pastori di Atreo. E tutto ciò fu opera di Artemide, che aveva lanciato una maledizione sull'animale impagliato. In una discussione che si svolse nella sala del concilio, Atreo rivendicò il trono di Micene sia per diritto di primogenitura, sia perché egli possedeva l'agnello dal vello d'oro. Gli chiese allora Tieste: «Tu dunque affermi pubblicamente che chi possiede l'agnello deve essere il re?» «Lo affermo», replicò Atreo. «E io sono d'accordo», disse Tieste, con un sorriso maligno. Subito un araldo convocò il popolo di Micene perché acclamasse il nuovo re. I templi furono ornati con serti aurei e le loro porte spalancate. I fuochi ardevano su ogni altare nell'intera città e si intonarono inni in onore dell'agnello cornuto dal vello d'oro. Ma Tieste inaspettatamente si alzò per accusare Atreo di vana millanteria e guidò i magistrati alla propria dimora, dove mostrò loro l'agnello, ne rivendicò la legittima proprietà e fu eletto re di Micene. Zeus, tuttavia, prediligeva Atreo e gli inviò Ermete con questo messaggio: «Chiama Tieste e chiedigli se acconsentirà a cederti il trono di Micene, posto che il sole muti il suo corso». Atreo fece quanto gli era stato detto e Tieste acconsentì ad abdicare se un simile prodigio si fosse verificato, a che Zeus, con l'aiuto di Eris, sovvertì le leggi della natura fino a quel giorno immutabili. Elio, giunto a metà del suo viaggio nel cielo, fermò il cocchio e voltò i cavalli verso l'alba. Le sette Pleiadi e tutte le altre stelle modificarono il loro corso per simpatia e quella sera, per la prima e per l'ultima volta, il sole tramontò ad oriente. L'avida frode di Tieste venne così smascherata ed egli fu bandito dalla città, mentre Atreo saliva al trono. Quando Atreo scoprì che Tieste aveva commesso adulterio con Erope, poté a stento dominare la propria collera, tuttavia per qualche tempo simulò perdono e misericordia. Ora codesta Erope, che taluni chiamano Europa, era cretese e figlia del re Catreo. Erope fu sorpresa un giorno da Catreo mentre accoglieva un suo amante nel palazzo. Stava per essere gettata in pasto ai pesci, allorché il re, commutando la sentenza di morte dietro preghiera di Nauplio, la vendette come schiava a Nauplio stesso per un prezzo nominale, assieme alla sorella Climene, che egli sospettava tramasse contro la sua vita. Impose tuttavia come condizione che né l'una né l'altra tornassero mai più in Creta. Nauplio sposò Climene, da cui ebbe due figli, Eace e Palamede l'inventore. Frattanto la prima moglie di Atreo, Cleola, era morta dando alla luce un figlio malaticcio, Plistene, così Artemide si vendicò su Atreo, che non aveva rispettato il suo voto, e Atreo sposò Erope, dalla quale ebbe Agamennone, Menelao e Anassibia. Ben presto anche Plistene morì, ucciso per errore dai sicari ai quali Atreo aveva dato l'incarico di assassinare il suo omonimo, il bastardo Plistene II, che Tieste aveva avuto da Erope. Atreo inviò allora un messaggero a Tieste per invitarlo a tornare a Micene offrendogli il perdono e la metà del regno. Ma non appena Tieste ebbe accettato, Atreo assassinò Aglao, Orcomeno e Callileonte, i tre figli che Tieste aveva avuti da una naiade, presso l'altare di Zeus, dove essi si erano rifugiati. Poi scovò e uccise il bimbo Plistene II e Tantalo II, suo gemello. Li tagliò a pezzi e, scelti i bocconi migliori della loro carne, li fece bollire in un calderone alla presenza di Tieste, quasi volesse festeggiare il suo ritorno. Quando Tieste ebbe mangiato con grande appetito, Atreo fece portare dai servi le teste sanguinanti dei bambini e i loro piedi e le loro mani, disposti su un altro piatto, affinché Tieste capisse quale sorta di cibo avesse introdotto nel proprio stomaco. Tieste si rotolò per terra vomitando e lanciò un'ineluttabile maledizione sulla schiatta di Atreo. Di nuovo esiliato, Tieste si rifugiò dapprima da re Tesproto a Sicione, dove sua figlia Pelopia o Pelopea era sacerdotessa. Smanioso di vendicarsi a ogni costo, egli aveva infatti consultato l'oracolo di Delfi che gli consigliò di generare un figlio dalla propria figlia. Tieste trovò Pelopia intenta a sacrificare nottetempo ad Atena Colocasia e, poiché non voleva partecipare ai riti, si nascose in una vicina grotta. Accadde che Pelopia, mentre guidava la danza rituale, scivolasse nella pozza di sangue sgorgato dalla gola della vittima, una pecora nera, macchiandosi la tunica. Subito essa corse allo stagno che vi era presso il tempio, si levò la tunica e stava per lavare la macchia quando Tieste balzò fuori dalla grotta e la violentò. Pelopia non lo riconobbe perché egli aveva il volto coperto da una maschera, ma riuscì a rubargli la spada e la portò con sé al tempio, dove la nascose sotto il piedistallo della statua di Atena. Tieste, quando trovò il fodero vuoto, temette di essere scoperto e fuggì in Lidia, la terra dei suoi padri. Frattanto Atreo, che temeva le conseguenze dei suoi delitti, consultò l'oracolo di Delfi e gli fu detto «Richiama Tieste da Sicione!» Atreo si recò a Sicione, ma troppo tardi per incontrarvi Tieste, e si innamorò di Pelopia, che egli credeva figlia di re Tesproto. La chiese allora in moglie, dato che aveva fatto giustiziare Erope, ben felice di allearsi con un re così potente, certo di rendere un buon servigio a Pelopia. Tesproto non smentì quanto Atreo supponeva e le nozze ebbero subito luogo. A tempo debito Pelopia diede alla luce il figlio generato in lei da Tieste e lo abbandonò sulla montagna, ma i pastori di capre lo soccorsero e lo fecero allattare da una capra, donde il suo nome Egisto, ossia che ebbe forza da una capra. Atreo pensò che Tieste fosse fuggito da Sicione all'annuncio del suo arrivo, che il bimbo fosse suo e che Pelopia fosse stata colpita dalla temporanea pazzia che a volte affligge le donne dopo il parto. Egli perciò recuperò Egisto tra i pastori e lo allevò come proprio erede. Una lunga serie di cattivi raccolti funestò Micene e Atreo mandò Agamennone e Menelao a Delfi per chiedere notizie di Tieste. I due giovani incontrarono per caso Tieste, che ritornava dall'aver visitato l'oracolo. Lo riportarono a Micene, dove Atreo, dopo averlo gettato in carcere, ordinò a Egisto, che aveva allora 7 anni, di ucciderlo nel sonno. Tieste si destò all'improvviso e vide Egisto che stava su di lui con la spada in mano. Si scansò rapidamente ed evitò la morte. Poi si alzò, disarmò il ragazzo con un calcio che lo colpì al polso e recuperò la spada. ma era la sua spada, che egli aveva perduto anni prima a Sicione. Afferrò Egisto per le spalle e gridò: «Dimmi subito come mai questa spada è venuta in tuo possesso!» Egisto balbettò: «Ahimè, mi fu donata da Pelopia, mia madre!» «Risparmierò la tua vita, fanciullo», incalzò Tieste, «se eseguirai i tre ordini che ora ti darò. Ti servirò in tutto», singhiozzò Egisto, che non si aspettava pietà. «Per prima cosa ti ordino di portare qui tua madre», gli disse Tieste. Egisto allora condusse Pelopia al carcere ed essa, riconosciuto Tieste, pianse tra le sue braccia, lo chiamò il migliore dei padri e lo commiserò per le sue sventure. «Come sei venuta in possesso di questa spada, o figlia?» chiese Tieste. «La sfilai dal fodero di un ignoto straniero che mi violentò una notte a Sicione», replicò Pelopia. «La spada è mia», disse ancora Tieste. Pelopia, colpita da profondo orrore, afferrò la spada e se la immerse nel petto. Egisto fissava la scena a occhi sbarrati, senza capire ciò che Tieste e Pelopia si erano detti. «Ora porta questa spada ad Atreo», fu il secondo ordine di Tieste, «e digli che hai portato a termine la tua missione, poi ritorna qui». Attonito, Egisto consegnò il ferro sanguinante ad Atreo che, il cuore colmo di gioia, scese alla spiaggia e offrì un sacrificio di ringraziamento a Zeus, convinto di essersi finalmente liberato da Tieste. Quando Egisto ritornò al carcere, Tieste gli rivelò d'essere suo padre e gli diede il terzo ordine: «Uccidi Atreo e questa volta non fallire il colpo». Egisto fece quanto gli era stato detto e Tieste regnò nuovamente su Micene. Un altro agnello cornuto e dal vello d'oro apparve allora nel gregge di Tieste e crebbe finché divenne Ariete, e da allora ogni nuovo re della stirpe di Pelope fu così divinamente confermato il possesso dell'aureo scettro. Gli arieti d'oro pascolavano liberamente in un recinto chiuso da mura invalicabili. Taluni tuttavia dicono che il simbolo della regalità non era una creatura vivente, ma una coppa d'argento che aveva inciso sul fondo l'immagine di un agnello d'oro. E altri che Egisto non poté essere l'uccisore di Atreo, poiché era ancora un bimbo in fasce quando Agamennone scacciò suo padre Tieste da Micene, strappandogli lo scettro. Tieste giace sepolto lungo la strada che conduce da Micene ad Argo, e sulla sua tomba c'è la statua di pietra di un ariete. La tomba di Atreo e il tesoro, che si trova in una cripta sotterranea, si mostrano ancora ai visitatori tra le rovine di Micene. Tieste non fu l'ultimo eroe che si vide servire su un piatto la carne dei propri figli. La stessa cosa accadde alcuni anni dopo a Climeno, l'arcade, figlio di Sceneo, che concepì un'incestuosa passione per Arpalice, la figlia che aveva avuto da Epicasta. Dopo aver sverginato Arpalice, la maritò ad Alastore, ma poi di nuovo gliela portò via. Arpalice, per vendicarsi, assassinò il figlio che aveva avuto da lui e che era altresì suo fratello, ne fece cuocere le carni e le servì a Climeno. Fu trasformata in uccello da preda e Climeno si impiccò. Il mito di Atreo e Tieste, che è sopravvissuto soltanto in versioni altamente drammatiche, pare sia basato sulle rivalità sorte tra i re argivi che dovevano salire al trono ad anni alterni, come accadde per il mito di Acrisio e Preto. Questo mito è molto più antico della leggenda dei figli di Eracle, l'invasione dorica del Peloponneso avvenuta circa nell'anno 1050 a.C., con la quale Tucidide lo associa. L'agnello d'oro di Atreo, sottratto al sacrificio, ricorda il toro bianco di Posidone che Minosse si rifiutò di immolare, ma appartiene alla medesima razza degli arieti dal vello d'oro sacri a Zeus sul monte Lafistio e a Posidone nell'isola di Crumissa. Il possesso di questo vello equivaleva a un'investitura regale, poiché il re se ne serviva in un rito annuale per propiziare le piogge. L'agnello è aureo metaforicamente, in Grecia la pioggia è oro e il vello provocava magicamente la pioggia. La metafora tuttavia fu probabilmente convalidata dal fatto che velli di pecora venivano usati per raccogliere polvere d'oro nei fiumi dell'Asia Minore e della nascita occasionale, nelle regioni del Mediterraneo orientale, di agnelli dai denti dorati, ritenuti discendenti di quelli che il giovane Zeus sorvegliava sul monte Ida. Nel XVIII secolo, Lady Mary Wortley Montagu si dedicò allo studio di questa persistente anomalia, senza riuscire a scoprirne l'origine. Può anche darsi che il regale scettro argivo fosse sormontato da un agnello d'oro. Apollo d'oro è molto vago circa i precedenti legali della controversia, ma le pretese di Tieste furono probabilmente identiche a quelle avanzate da Maeve nella fratricida irlandese guerra dei tori, e cioè che l'agnello fosse stato sottratto alla sua metà del gregge. Euripide introduce Eris nella vicenda al momento sbagliato. La dea probabilmente scatenò la lite tra i fratelli anziché aiutare Zeus a mutare il corso del sole, fenomeno che essa non aveva il potere di produrre. I grammatici e i filosofi classici hanno spiegato tale evento in vari e ingegnosi modi che anticipano i tentativi fatti nel XX secolo dai protestanti per dare una giustificazione scientifica al movimento retrogrado dell'ombra del sole sul meridiano di Haaz. Luciano e Polibio scrivono che quando Atreo e Tieste si disputarono la successione al trono, gli argivi erano già avvezzi a studiare il corso delle stelle e stabilirono che il migliore astronomo dovesse essere eletto re. Nella prova che seguì, Tieste dimostrò che il sole sorge sempre nell'ariete al solstizio di primavera, e di qui la storia dell'agnello d'oro, ma Atreo fece di meglio. Provò che il sole e la terra avanzano in direzioni opposte, che ciò che pare un tramonto del sole è in realtà un'alba della terra. Gli argivi allora lo elessero re. Igino e Servio ammettono concordi che Atreo fosse un astronomo, ma fanno di lui il primo che predisse con esattezza matematica un'eclissi di sole, e aggiungono che quando i suoi calcoli risultarono esatti, il geloso fratello Tieste lasciò la città furibondo. Socrate interpreta il mito in modo ancor più letterale e lo considera una prova della sua teoria secondo la quale l'universo gira e rigira su se stesso in cicli alterni di lunga durata, e la conclusione di ogni ciclo è accompagnata da grande distruzione di vita animale. Per capire la storia di Atreo e Tieste, tuttavia, bisogna esaminarla non da un punto di vista allegorico o filosofico, ma mitologico, e cioè nei termini dell'arcaico conflitto tra il re sacro e il suo successore. Il re regnava fino al solstizio d'estate, quando il sole raggiungeva la posizione più settentrionale e là si fermava. Allora il successore lo uccideva e si sostituiva a lui, mentre il sole di giorno in giorno retrocedeva a sud verso il solstizio d'inverno. Questo odio reciproco, inasprito dalla gelosia sessuale, dato che il successore del re sacro sposava la sua vedova, si estese ai co-re argivi, che regnavano alternativamente per un grande anno. Essi dunque si disputarono per Erope, come Acrisio e Preto si erano disputati per Danae. Il mito di Ezechiele, che si trovava in punto di morte quando, come segno del favore di Geova, il profeta Isaia giunse 10 anni al suo regno, facendo retrocedere il sole di 10 gradi sul meridiano di Ahaz, ci lascia supporre che, secondo una tradizione ebraica o forse filistea, dopo la riforma del calendario che seguì l'adozione del ciclo metonico, al re fosse concesso di prolungare il proprio regno fino al 19° anno, anziché morire al 9°. Atreo a Micene può aver usufruito di una analoga dispensa. La festa cannibalica in onore di Zeus, cui si accenna nel mito di Tantalo, è stata qui confusa con il sacrificio annuale dei sostituti bambini e con la leggenda di Crono che vomita i figli avuti da Rea. Tieste, che usa violenza a Pelopia, ricorda il mito di Cinira e Smirna, e può essere interpretato come un tentativo del re di prolungare il suo regno oltre i limiti consentiti sposando la sua figliastra. Erope, salvata dai pesci del mare cretese, si identifica con Dittinna Britomarti, che il nonno Minosse aveva gettato in mare. Egisto, allattato da una capra, è il solito fanciullo dell'anno nuovo presente nei misteri. La storia di Climeno e Arpalice, vi fu un altro personaggio tracio con lo stesso nome, una specie di Atalanta, fonde il mito di Cinira e di Smirna con quello di Tereo e di Procne. A meno che non si tratti di una versione artificiosamente composta per il teatro, come il non mitico suicidio di Climeno, per impiccagione lascerebbe supporre. Può darsi che il re abbia cercato di mantenere il trono allo spirare del termine concessogli maritando l'erede sacerdotessa, teoricamente sua figlia, a un interrex per poi ucciderlo e riprendersi la vedova. Alastor significa vendicatore, ma il mito non parla della sua vendetta. Forse nella versione originale Alastor era la vittima di un sacrificio umano.